Buonasera, siamo di nuovo sulla navicella e appunto Sbarrielli, tutti dalle nostre cabine di comando, il Nostromo, la voce che state odendo in questo momento. Abbiamo la Zecca Garbugli, buonasera Zecca Garbugli. Buonasera a tutti. Abbiamo il Mozzo, che è molto wild questa sera. Sì, buonasera e benvenuti a tutte le nostre, alla nostra rubrica interviste per lui e per lei. Ok, svarioni e interviste. Stasera abbiamo, lo dico per ultimo, ma non perché è il meno importante ovviamente, abbiamo con noi Tonino 3000. Buonasera a lei Tonino. Allora, potremmo stare qua a parlare del più e del meno, ma direi di rompere subito il ghiaccio con il domandone che facciamo a tutti gli artisti che ci vengono a trovare qua sulla navicella. E il domandone, niente di più semplice ma niente di più difficile, di chi sei? Allora, io sono di nome Tonino, numero di serie 3000, e faccio parte di un collettivo che ho fondato qui dalle mie parti, tra Rimini e Cesena a Savignano, che si chiama Falafel Fat Familia, e mi occupo principalmente di laser, afropunk, batterie elettroniche, diciamo, feste, ecco. Questo quindi un party... un'attività non essenziale, ecco, un'attività non essenziale che rimarrà chiusa per molto tempo. Questo è quello di cui mi occupo io. Per ora però stiamo poi trovando nuove dimensioni cibernetiche, diciamo, per portare avanti il party love. Però... Assolutamente, me le godo tutte, anzi anche già questa intervista, dopo un mese chiuso in casa, è la prima mia forma di cioè per esistere, oltre i miei seguitissimi post su tutti i social, è la prima volta che dico la mia. Grazie per questa possibilità di entrare nel cyberspazio in maniera anche un pochino più... Anche questo qui è un esempio di abitazione cyberspaziale. E assolutamente. Mi interessa anche tantissimo, ora che ci hai detto chi sei, e sapere da dove vieni in senso lato, qual è il tuo background. Allora, io ho iniziato, diciamo, con la musica, ho iniziato da ragazzino, proprio da piccolo, perché mio padre è musicista, suona il sassofono e ha sempre suonato con diverse situazioni, tra l'altro anche per mia fortuna anche abbastanza freak, cioè in un certo senso, come potevano essere viste all'epoca o anche adesso, gente che suonavano un gruppo per esempio che era misto, dove erano uno dei pochi gruppi magari inizio anni 90 veramente dove c'erano, no, italiani, africani, cioè poi italiani, comunque mio padre è di Roma, quindi non so se gli piace essere chiamati italiani, proprio romani e africani, o piuttosto che certe cose, per esempio la mia famiglia è trapiantata qua in Romagna, però mio padre si è trovato a suonare spesso in situazioni di poesia dialettale rimessa in musica, quindi c'era un po' anche l'ambiente del teatro, tutte queste cose qui un po' mi rimbalzavano addosso, nel fatto che c'erano molti strumenti in giro per casa su cui sbattevo fondamentalmente. Mia sorella si è cresciuta molto sbattendo sulle percussioni e queste cose qua, avevo provato un po' da piccolo, avevo provato a fare solfeggio, il pianoforte, quando hanno visto che mi annoiavo tantissimo, mi ha detto no, non lo fare, se non ti piace non lo fare, che cazzo, figurati, c'è già un musicista in casa. Poi col tempo, diciamo 12 anni, ho iniziato a suonare il basso, e è l'unica cosa che ricordo della mia vita fino ai 18 anni, penso, andare a scuola e suonare il basso, sempre molto, ero molto preso dal punk, da qualsiasi cosa che potesse essere funk fondamentalmente, che andava da James Brown, Red Hot Chili Peppers, stavo lì a sbattere, a suonare sempre. Poi piano piano col tempo ho avuto, quando ho finito il liceo, ho proprio fatto questa scelta di dire, cioè, quelli che i musicisti che io ascolto, al di là di mio padre o no, come gli può andare, se gli è andata bene, gli è andata male, chi lo sa. E i musicisti esistono, quindi se nessuno decide di farlo, cioè, è chiaro che non è una carriera sicura, si sa, però io mi sono diplomato nel 2009, cioè nel 2009 già l'idea di una pensione, di un lavoro serio era già strana comunque, cioè, si capiva dove stavamo andando, quindi a un certo punto io che ho sempre stato un adolescente molto coscienzioso, molto lì, sempre su, no, sul pezzo, sempre a studiare o a studiare le canzoni che mi piacevano, così ho detto vabbè, rischioso per rischioso, faccio una cosa che mi piace. Ho iniziato a suonare, per fortuna qui in Romagna, un po' con la scusa magari dei bagni al mare, di varie situazioni o comunque della goliardia varia, perché quella va detto che comunque c'è, mi sono trovato a suonare con un po' di situazioni di musisti più grandi di me, che mi hanno insegnato tantissime cose, sia da fare che da non fare. Diciamo che io fino ai 23-24 anni, adesso io ho 29, ne faccio 30 a dicembre, diciamo fino ai 24 anni in realtà non ho mai fatto il turnista, inteso come chi c'è, lì vado a suonare, però suonavo il basso in gruppi o miei o di gente più grande che a me piacevano molto, piacciono tuttora anche se non ci suono più magari, e varie cose, soprattutto molto nell'onda tropicale, non solo onda tropicale, anche perché potete immaginare proprio è anche banale, no? Come associazione, se vai a suonare in un bagno al mare a musica tropicale non sbagli, della bassona, esatto, queste cose qui. C'era addirittura, per parlare della bassona, c'era un gruppo con cui suonavo che sono tuttora attivi, li consiglio sempre, che sono dei matti scatenati, che si chiamano Supermarket, perché erano appunto marchettari di lusso. Li conosci? Io sono nato 6 anni con loro e loro avevano proprio un pezzo che si chiamava Lido di classe non è acqua, che è proprio la foto di questa cosa. I Supermarket li ho sentiti al TPO tipo 4 anni fa, la festa della birra al TPO, e hanno... Esatto. È possibile che il tastierista dei Supermarket, magari mi sto sbagliando, ha suonato anche negli Extra Liscio? Il chitarrista dei Supermarket, sì, suona negli Extra Liscio. Io tra l'altro tramite lui ho registrato io il basso nel primo disco di Extra Liscio, cioè il mio basso. Ma bello, comunque lo so. Sono belli anche se non suonano loro, c'è da dire. Comunque no, c'è da fargli. A me c'è Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, che mi sembrano gli Starsky e Hutch, non strani. Sì. Quella è un'immagine, sì, quella è proprio la realtà aumentata della Romagna. Cioè, se sì, tu vedi il 5K romagnolo. Sì, loro sono proprio un'altissima definizione da decenni. Correggimi se sbaglio, Tonino, ma anche i Gesto Funk sono romagnoli? Sai che io loro li ho sentiti nominare tantissime volte, ma non ci ho mai avuto a che fare, non te lo saprei dire. Cioè, conosco, so bene chi sono, ne parlava il trombonista, se non sbaglio, dei Supermarket, aveva avuto a che fare con loro, però non te lo so dire adesso. Io ti dico, io penso siano romagnoli, perché quando lavorava a Cervia, la mia capa barista si trombava il cantante. Un aneddoto, momento del gossip del mozzo. Io allora propongo una cosa, perché mi piacerebbe approfondire tutto questo gossip sia sulla Romagna che sul tuo collettivo. Però prima manderei un brano. Manderei il tuo primo brano, che è uscito come Tonino 3000. Brandelli. Quindi Brandelli di Tonino 3000, per entrare ancora di più nel 5K romagnolo. Tonino, sei una merda. Amor. Molto bene, dunque la provincia romagnola, diciamo, è stata un terreno fertile da un lato che ha portato a suonare nei bagni o comunque a decidere subito di fare il musicista subito dopo il liceo, e quindi da un lato è stato fertile come terreno, e quando hai deciso poi di passare all'elettronica, alla musica un po' più verso l'elettronica più sì beh, io allora alternativa, ecco, diciamo, e com'è stato questo rapporto con la provincia romagnola, com'è allora cambiato? Sicuramente, cioè, tra le cose positive, ricollegandomi al discorso che facevo prima, no, di andare a suonare, cioè, che poi riprendendo anche il discorso di questa canzone, quando a un certo punto dice vuoi una multipla ma non l'avrai mai, in realtà mi riferisco al fatto che io, quando facevo più quella vita lì, no, suonavo in molti localini con varie situazioni, varie persone, cose mie, alla fine, ridendo e scherzando, capito, un ragazzo a 23 anni che, cioè, l'unico lavoro che conosce è andare a suonare, mi ero comprato una multipla, ero riuscito a pagare una caparra per vivere da solo, è stato un pochino da solo, cioè riuscivo a mantenermi alla cazzo di cane, però riuscivo a mantenermi. Quella è stata una cosa che in realtà mi ha dato anche molta fiducia, da un certo verso. Dall'altra, a un certo punto, mi aveva completamente esaurito, perché, no, ci sono vari modi, secondo me, in cui uno prende la musica, e per me io ho capito che era fondamentale, cioè, la parte, quella che già facevo ma che tenevo in disparte, della composizione, di fare le cose mie, e soprattutto del dover riuscire a uscire ogni tanto da quello che può funzionare o non funzionare in un baretto, in un bagno al mare, fare quello che avevo in testa. Lì è nata Falafel Faz Familia, quando magari ancora non avevo il mio progetto come Torino 3000, ne avevo un altro che si chiamava Radio Maria, e facevamo fondamentalmente delle elettropunk, quindi chitarra e basso super fuzz e beat dal computer, e cantavamo in tre, e da lì ho iniziato a avere dei contatti con l'elettronica per un discorso più, in realtà, che era di inizialmente pratico, nel senso che non avevo conoscevo molti batteristi bravi, ma non conoscevo magari batteristi che avrebbero, non so, preso sul serio questa cosa, oppure anche solo da chiamarli e dire facciamo sta roba, ma non so se poi non andiamo a suonare nei bagni al mare, altri contatti non ne ho. Quindi, diciamo, da un certo punto in poi ho sentito il bisogno di cambiare quella roba, fare ovviamente molti meno soldi, però da lì in poi è nata questa cosa, e ho visto anche la parte un po' più amara, cioè, della provincia, che non è per, cioè, non è assolutamente per dire che in città è facile, perché poi non è facile un cazzo, però sicuramente quando tu fai una cosa risulta sempre molto molto molto più estrema di quello che stai facendo. Quindi magari io, quando in testa avevo una cosa che già rispetto ai miei ascolti poteva essere un po' estrema, no? un po' radicale, questa idea di fare, prendere dalla cumbia, dall'afrobeat, buttarci dei fuzz e delle drum machine che andavano dritto così, già era una roba che poteva essere un po' estrema in certe situazioni, e qui ci mettevo poco a fare il giro di là e passare proprio per matto. Ah, quindi la provincia amplifica molto, cioè, sì, in quel senso lì amplifica forse anche un po' troppo, cioè ti mette in dubbio in un modo che secondo me è molto sano, il fatto di dire, cioè, tu chi sei, che fai quello che vedi riflesso negli occhi degli altri o no. Dall'altro lato, anche già solo per il fatto che io comunque avevo già molte relazioni con molti musicisti, gestori e cose così, ho visto che piano piano, da essere, capito, il ragazzino prodigio che magari a 18 anni suona con quelli più grandi, buono, qualsiasi roba gli dà da suonare lui la suona e va bene così, di colpo sembrava, capito, che mi ero preso un acido in più e andavo in giro a fare robe blasfeme, quando in realtà, cioè, facevamo una cosa che per me poteva essere semplicemente un mano ciao più fuzz, non so come dire, invece risultavamo come l'anticristo, ecco. Come ti sei dissociato un attimo dal canale principale, che era quello dei bagni, dei locali che si aspettavano un determinato tipo di musica, ti sei accorto che non c'era spazio per qualcosa di diverso, se non, cioè, o comunque proprio anche già nella percezione di chi, cioè, perché comunque scioccare qualcuno che ti sente per la prima volta va bene, anche una cosa secondo me molto positiva, però quando vedi che piano piano tutti ti iniziano a trattare come quello che deve fare sempre la cosa strana, no? Cioè, che non avendo riferimenti per capire a chi ti ispiri, allora fai automaticamente una cosa strana e vai in tutto un carrozzone di roba alternativa, sperimentale, ma intesa in realtà anche con una certa, non so, cioè, anche lasciata un po' come dire sì, vabbè, bravo te che c'hai cazzo da fare, che ti fumi addosso, fai venire. Beh, però immagino che poi il collettivo, la forza del collettivo è anche per contrastare questa cosa qua, no? Cioè di riuscire a trovare comunque un nucleo di persone che a livello di vibrazioni sono simili. E cioè, perché secondo me in città c'è il problema opposto, ovvero che magari ci si trova in un sacco di persone che si fa tutti la stessa cosa e si inizia un po' a farsi pompine vicenda, non so come dire. Quindi magari il fatto del collettivo che nasce invece dalla provincia per sostenersi, ma per una cosa proprio di esistenza, non soltanto di... Già solo per almeno avere un linguaggio comune con qualcuno, capito? Qualcuno che se... fai una citazione di una cosa che non, cioè, non per forza è un discorso solo culturale, proprio di parole, cioè che se devi sempre, se io devo spiegare a uno che fa il liscio cosa faccio, io la butto in due secondi, dico ma faccio una roba, faccio un po' di roba africana con l'elettronica. Chiaro che se invece con i nostri, capito, stavamo a parlare delle sfumature di certe robe, inizialmente infatti come collettivo siamo nati in realtà come gruppo di gruppi, nel senso che è nato Radio Maria. E nel frattempo con degli altri miei amici stavamo facendo questa cosa completamente proprio a scopo solo di sfogo. Avevamo fatto una band, facevamo le cover di Bob Marley, tutti anarcho-punk, proprio buttare fuori tutto l'odio possibile. E da quei ragazzi con cui suonavo, più ragazzi con cui suonavo con Radio Maria, da Radio Maria il ragazzo che suonava il basso aveva iniziato un gruppo che era i Ponzio Pilates, dove che all'inizio tra l'altro suonavano per strada facendo le cover di Radio Maria. Sentiti a XM, mi pare, mi hanno fatto sbragare tra l'altro. Gemmavamo tutti sulle stesse cose, capito? Quindi da un certo punto di vista io ero l'unico in mezzo a sta decina di persone che faceva il musicista e che aveva comunque l'ambizione di continuare a farlo, e mi sono chiaramente fatto un po' più carico di tutto quanto. All'inizio eravamo un gruppo di gruppi, poi col tempo è reso evidente il fatto che comunque già è difficile mandare avanti un gruppo, figurati un gruppo di gruppi dove ogni gruppo ha le sue dinamiche, i suoi cazzi. La cosa diciamo è andata avanti un paio d'anni così. Poi la cosa che ha fatto svoltare tutto e che mi ha fatto anche buttare poi molto di più sull'elettronica, per tornare alla domanda, è stato il fatto che io per una serie di cose iniziavo a avere una tendinite che si sentiva, che c'era, però la mia attitudine di quel momento era proprio, cioè era proprio vivere o morire, quindi non è che potevo, cioè detto o lo faccio o non lo faccio, quando non ce la faccio più a farlo poi mi fermo. A un certo punto ho aggravato così tanto questa tendinite che non tenevo neanche in mano più una bottiglia, la famosa mano dell'ostetrica. Sì, ho fatto veramente la mano da ottantenne e lì mi sono dovuto fermare. C'è chi mi è rimasto un po' più vicino, c'è chi come i Ponzio stavano iniziando invece a fare le prime cose senza che io gli facessi da babysitter, e quindi c'è chi mi ha lasciato lì perché ero sempre di cattivo umore, ero negativo, non ero positivo, perché chiaramente non riuscivo a collarmi manco me stesso. Era il primo momento della mia vita in cui non potevo suonare. Tra parentesi, il secondo è questo, no? È questo qui. Beh, la ti mette molto in analogia con Richard Benson, presente che lui... era un virtuoso della chitarra che però ebbe un'artrite assurda che non poteva più suonare, si lanciò giù da un ponte. Verissimo, io ci ho pensato, onestamente ci ho pensato, cioè è stato uno dei miei momenti veramente più oscuri, perché già ero molto insoddisfatto per una serie di cose anche all'interno del collettivo, e lì quello l'avevo visto un po' come il game over. Poi per fortuna mi era capitato, e questa è una cosa che ci tengo anche molto di dirlo, questa associazione di Cesena che si chiamano Aidoru, con cui avevo già suonato in un loro progetto molto bello di musica di strada, avevamo fatto qualche festival europeo anche, e lui mi aveva buttato lì a inizio estate, mi aveva buttato questa cosa che avrebbe voluto fare delle feste a tema elettropicale, global bass, cioè portare un po' di musica che da noi non c'era proprio da nessuna parte, perché tutto quello che potevi ricollegare diciamo a musica internazionale che non fosse rock o cose così era assolutamente soltanto magari dell'afro o del reggae. Okay. E lui invece era un po' più nella sperimentazione di queste cose, mi ha detto oh, ti va di organizzare queste cose? Io conoscendolo ho detto va bene. Poi quando mi sono ripresentato da lui a settembre gli ho detto guarda, questa è l'unica cosa che io posso fare, la possiamo fare, e avevamo messo su questa festa bellissima, ingresso libero, nella Rocca Malatestiana di Cesena, tutti i venerdì senza tessere, cazzi, dalle 10 alle 3. Ed è venuta gente anche da fuori. Poi adesso non so se voi conoscete per esempio quei ragazzi di Ballera Favela di Milano, che è una sentito, però mi sto confondendo. Comunque quello è stato proprio un momento, poi è durata poco perché chiaramente sono arrivate un po' di varie soffiate da vari altri locali, il comune ci ha ritirato tutti i permessi, li ha ritirati loro anche per cose molto più grosse, adesso è una storia lunga, però in quei sei mesi lì di colpo non mi sembrava più di vivere assolutamente in provincia, cioè era proprio vedere, capito, arrivare un DJ dalla Colombia piuttosto che dei DJ da Milano, piuttosto che quell'altro, capito, da Bologna, che venivano a Cesena e non venivano per fare la marchetta ma per fare una festa che... Era clamorosa, adesso se poi c'è la qualità, la gente arriva da ovunque. Cioè. C'era una situazione. E infatti, quello mi ha molto svegliato sul fatto di dire che ormai noi la provincia non possiamo più considerarla come un posto dove le cose non arrivano. No, ma è un posto dove le cose si mettono in pratica, però ad altre velocità. Soprattutto a un'altra densità. Dimmi tutto. No, infatti, perché mentre stavamo parlando appunto di... Adesso non voglio fare l'intellettuale, però mi ha fatto venire in mente, parlando di Cesena, di parlare come anche dalla provincia, se hai le qualità o comunque sai, puoi veramente arrivare in tutto il mondo. Ho visto l'altro giorno un filmato sulla Raffaello Sanzio, Societas, sì, e di Castellucci, che loro sono di Cesena e veramente hanno fatto cose allucinanti. Io manderei appunto un brano. Che brano vuoi mandare, Tonino? Dimmelo tu. Ma guarda, già che siamo qua, io butterei una grande anteprima. Un brano ancora non pubblicato. Dai. Così poi possiamo andare a ritorno. Questo è il nuovo brano di Tonino 3000, che per fortuna ho finito proprio di registrare, di mixare in studio da Federico Viola a Ferrara. La settimana prima, quindi. La settimana prima, proprio che finisse tutto, quindi sono riuscito a registrarla. E adesso c'è una ragazza del collettivo che si chiama Wotsu, che sta preparando un video animato che insomma è a buon punto. Spero di interessante il fatto del collettivo, comunque ci sono anche figure che non sono soltanto musicali, cioè che col tempo si è evoluta molto la situazione. Adesso in realtà l'unico vero proprio musicista sono io, e poi c'è magari dopo, magari se vuoi che poi entriamo più nel dettaglio anche con le canzoni su vari personaggi. Molto, intanto questa è Moglie Meno. Che è una canzone che potremmo anche dire che parla di quando sei in provincia, sei in pochi a fare le cose, poi è anche facile cuzzare, scuzzare, litigare, e quando si litiga poi si può fare finta di niente oppure ci si può dare al dissing, e io sono un amante del dissing sempre, quindi dissiamo con quindi, questa primita Moglie Meno, vai con te, onde o con... Perfetto. Tonino in anteprima ci regala un pezzone assolutamente. Grazie. E niente, io direi di continuare a parlare dove ci siamo lasciati, continuare a parlare un po' del collettivo, del tuo collettivo, che quindi dicevamo a tutto tondo non è soltanto musica ma è arte in generale, o comunque voglia di fare, che nasce dalla provincia e va e cerca di conquistare tutto il mondo. Dominiolo con prof. Proprio mignolo col prof, è quella cosa lì. Ogni sera tentiamo, il giorno dopo facciamo la stessa cosa del giorno prima, tentare di conquistare il mondo. Cioè, Falafel Fuzz Familia, nel momento in cui è nata, era molto molto incentrata chiaramente sulla musica, e perché eravamo tutti musicisti. Poi in mezzo c'era già, per fortuna, chi si poteva occupare un po' più delle grafiche, chi aveva un pochino più quell'occhio, e già un minimo riuscivamo a sviluppare anche un'estetica al di fuori solo del suono, piuttosto che nei costumi, anche sul palco, certe cose, E col tempo, cioè io fondamentalmente, questa del collettivo, come diceva prima Bonnie, se non sbaglio, uno la crea anche proprio, cioè io me l'ho proprio creata proprio per creare una rete, per riuscire ad arrivare anche solo quando arrivavamo in un posto, suonava un gruppo, c'era anche il resto del collettivo che già dava un po' di spinta. Quando io mi sono fatto male, che sono rimasto un po' più da solo, alcune persone che stavano iniziando a gravitare attorno alla situazione, o altre che c'erano già, quelli che sono rimasti paradossalmente erano tutti un po' più, invece non è, insomma, la performance dal vivo, anche solo suonare e cantare era una cosa che magari gli sarebbe sempre piaciuta, ma si sono trovati quasi dentro in maniera incidentale. Però per fortuna, ecco, tra le varie persone c'è chi ha portato quello che forse per i primi 2 o 3 anni ci ha mancato, ovvero anche dei contenuti al di là della musica, che era una cosa che io facevo fatica un po' a condividere all'inizio. Cioè si condividevano molte cose pratiche, ma io per esempio Falafel Fuzz Familia mi ricordo benissimo quando l'ho iniziata a decidere, ero in fissa, come poi sono tuttora anche adesso, con Fela Kuti. Mi ero letto un paio di volte la biografia. Fela Kuti, per farla breve, per gli amici da casa lo dico, era, diciamo, questo musicista nigeriano che aveva unito l'impegno politico alla musica in una maniera veramente, veramente radicale. Aveva la sua comune, aveva continuamente i raid della polizia, quindi fino alla fine anche dell'esercito, gli hanno bloccato il passaporto 1000 volte e lui non si è mosso di una virgola, continuava a fare i nomi e cognomi di tutti quanti, parlava. E quindi questo spirito di denuncia in mezzo alla musica da ballo, alla musica che creava proprio una tribù sul palco, una tribù fuori dal palco, una tribù gigantesca col messaggio politico dentro, a me piaceva molto. Però effettivamente a parlare di politica con quelli che eravamo, con i musicisti, è spesso difficile parlare di politica. Non so se ve ne siete mai accorti che il musicista è individualista. No, o ci sono i musicisti che parlano solo di politica, o poi ci sono tutti gli altri. Io sono quello là, cioè, capite? Solo sono full on, forse perché ho depoliticizzato così tanto per andare nelle cose, no? Nei bagni al mare sono così depoliticizzati che dopo mi sentivo in difetto. E in questo soprattutto un membro del collettivo che vorrei salutare, che sicuramente in ascolto, è Junko Dayton, e dopo sentiremo anche anche un suo pezzo. E lui per esempio, sì, è sempre stato grande appassionato di musica, grande ascoltatore, aveva anche studiato musica. Però il suo vero impatto è stato il fatto che lui, quando ha visto Falafel Fuzz Familia da fuori, in poco tempo, in poche conversazioni che abbiamo fatto io e lui, era evidente che aveva capito molto di più le idee che mi muovevano rispetto a persone che stavano con me tutto il giorno, e grazie a lui siamo riusciti ad accelerare su quella fase. E adesso per esempio posso dire tranquillamente che adesso con Falafel Fuzz Familia ha, su una serie di cose, c'ha una sua posizione fortemente politica, che si può unire anche col discorso di fare, no, quella che una volta si chiamava world music, piuttosto che fare dell'elettronica, piuttosto che fare del punk o delle feste. E quella è stata la più grande ricchezza, secondo me, del collettivo, il fatto che finalmente, dopo tanta vaghezza, tanto stare assieme per, tra virgolette, no, per convenienza, quasi con la mentalità da branco, ecco, da branco siamo passati a collettivo, perché prima eravamo un'orda di pazzoidi che andavano in giro a sfasciare tutto, metaforicamente per lo più. Però io lo sentivo quella cosa, che quando andavamo a suonare nei centri sociali o cose così, dovevo stare sempre un po' attenta a che cazzo dicevano gli altri, perché potevano essere veramente molto fuori no, non perché fossero dei fasci, per carità, no, però non sai mai come, cioè, prendere alla leggera delle questioni che per molte persone sono importanti, capito? E dire, ah, ma che palle questi, quelli e quell'altro, e ma hai capito dove cazzo siamo? Adesso su quello posso dire, infatti ho visto che negli ultimi 2 anni comunque anche ci siamo trovati meglio a lavorare con situazioni così, c'è capitato di suonare soprattutto in Veneto delle belle situazioni al CSO Pedro e al CSO Arcadia, e io sono contento sinceramente se la famiglia si sposta sempre più in questa direzione. E noi siamo fondamentali, per ridurla potremmo essere definiti voi degli accelerazionisti, non lo so, cybercomunisti, direi cybercomunisti. Perché ecco, cyber, se va bene. Turismo effettivamente ha qualche sfumatura un po' fascista, forse cyberfuturista. È fiero di noi. No, assolutamente no, no, bilancia un po'. Cyberfuturisti mai. Cyberfuturisti mai. No, no, proprio cioè tutte quelle cose. Io devo dire che molto molto cioè, quando eravamo in un gruppo di gruppi, cioè a leggerci dei libri, eravamo veramente in 2, 3 così, e non ne parlavamo mai troppo perché poi gli altri si annoiavano, interrompevano. Adesso dai, abbiamo un minimo, un po' meno più di basi, molti libri, molti, soprattutto una cosa che ci ha influenzato molto, o almeno anche a me in particolare, è stata questa casa editrice che si chiama Nero, Not. Ah, come no. Che varie cose, no? Mark Fisher. Stavo in questi giorni, appunto, realismo capitalista. È fantastico. Tra l'altro, lui, e la cosa bella è che il realismo capitalista fa anche molto un'analisi della musica in certi punti. Bellissimo. Quando all'inizio si parla di tutto il pensiero degli anni 90, che negli anni 2000 viene distrutto, lui va in analogia con Burial, e io gli applaudo. Bellissimo. È un bel tipo. Parla della jungle, parla di tutte quelle cose lì. E certe letture, proprio, che anche quando non parlavo direttamente di musica, mi hanno rimesso un po' al centro, perché comunque io, onestamente, quella questione della tendinite mi ha sballottato molto, perché io tutta la mia vita l'avevo basata sulla musica, quindi sono andato in modalità sopravvivenza, cercare di capire come fare, ho iniziato a fare un po' il DJ, un po' organizzare le feste, poi piano piano suonavo, ma poi la chitarra non riuscivo più a suonarla perché l'ho sempre suonata a cazzo, il basso l'ho ripreso, quindi pensavo sempre molto al mio piccolo e mi sentivo, ed ero diventato, mi ero accorto, anche molto più cinico su certe questioni politiche. Cioè, che è una cosa che poi capita spesso, soprattutto a chi sta a sinistra, che è normale, che ti prendi tante di quelle botte che dici che è buono, cioè, che siano botte alle manifestazioni o botte morali, sempre dal perdere sempre, che avevo rinunciato a elaborare delle cose, quindi anche il mio ruolo come musicista mi sembrava ancora più futile, no? Certo. E invece certe cose, soprattutto di realismo capitalista, o anche certe analogie col passato, e quindi in questo caso per esempio col discorso anche di Fela Kuti, una battaglia come quella di Fela Kuti fatta adesso sarebbe comunque sia, secondo me, assolutamente lodevole e ottima. Certo. Oltranzista la potremmo definire, però sicuramente viviamo in un mondo diverso, la musica per prima passa per canali diversi, e una delle cose che più mi ha aiutato in queste letture è stato per esempio riabbracciare in pieno la tecnologia, cioè la proiezione del futuro, non solo come proiezione verso la distopia, perché per quanto mi riguarda la distopia ci vivevamo già anche prima della quarantena, quindi non c'è da temere il futuro, c'è da andarci proprio incontro. Quindi se tu non sto dicendo combatti il nemico con le sue stesse armi, sto dicendo che la tecnologia è schiava del capitalismo, ma non è figlia di questo sistema. No. La tecnologia si è sempre sviluppata e si deve sviluppare. Ma infatti, e musica, scusate. Guarda, una per esempio, una cosa che poi mi potrei agganciare anche per presentare il prossimo pezzo, dai, se vuoi. Allora, era tutto calcolato, ovviamente. Era tutto calcolato. E era che inizialmente proprio il motto di Falafel Faz Familia era Afropunk Zero Dream. Cioè, eravamo fondamentalmente il più disillusi possibili. Ed è una cosa che io sento molto, sono affezionato, non è che non rinnego niente. Col tempo, grazie a questo discorso di lettura e di consapevolezza, siamo passati a diverse cose, ma in questo momento, ti parlo dell'ultimo anno, non sto parlando di questo momento particolare, il motto stava diventando sempre di più abbracciamo la distopia. Cioè, come dire, ok, stiamo andando verso lì, ok, cioè abbracciamo la distopia, anche se questo mondo sembra, anche se questo mondo fosse già condannato, cioè se l'abbiamo sfasciato, ormai l'abbiamo rotto, noi questa distopia non ci possiamo buttare contro, non ci possiamo buttare dentro perché ci finiamo annullati, e allora in qualche modo tocca conviverci, e per questo quella cosa tropicale, più afro, più terzomondista, a me rimane sempre fondamentale, perché è quello l'esempio di dire, cioè, molta della musica che... Molta della musica che prendiamo viene da posti che hanno una storia veramente drammatica, e quelle cose non sono state scritte in piccoli momenti di euforia in mezzo a un dramma. Dico, dentro al dramma, stando dentro al dramma, cioè ispirati dal dramma. sempre a contatto col problema, sempre a contatto col problema, e in qualche modo cerchi di trasformarlo così. Il pezzo che vorrei mettere su adesso è un brano che abbiamo lavorato, cioè, partito da un'idea di Junko Dayton, poi io ho curato un po' la produzione, ho fatto un mio intervento, e poi c'è anche un sample molto bello che ha scelto Wotsu, che è la ragazza di cui parlavo prima, che fa il video animato. Il brano inizialmente era partito come un crossover tra un brano di Nino D'Angelo che si chiama Lo Speniel, io lo adoro, un mashup con un beat che avevamo trovato, di quelli lo-fi che ti fanno usare gratis, basta che metti il nome, che era la sigla di Rick e Morty. Quindi era questo mischione tra Rick e Morty e Nino D'Angelo, era partita questa cosa, e Junko Dayton aveva scritto questo testo che inizialmente l'aveva chiamato Filangeri, il nome di una via di Napoli che tra l'altro era citata anche nel pezzo, e lui parlava di un amore ai tempi della catastrofe, cioè quando è successa una catastrofe questi due innamorati, e col tempo, senza cambiare neanche una parola, mentre stavamo finendo i mix è scattata la prima zona rossa, abbiamo iniziato a sentire qualcosa, il giorno stesso che è stata dichiarata l'Italia zona rossa totale, lockdown, abbiamo deciso di chiamarla quarantena e l'abbiamo pubblicato così. E è incredibile come in realtà c'è tutto quello che diceva era perfetto, cioè, piuttosto che parlare, no, di come ti fa sentire la quarantena, era stato scritto sentendosi già nella distopia. Questa si chiama Quarantena, quindi, Junko Dayton, Wotsu e Tonino Tremi. Quarantena. Sei il mio orgoglio. Tu sei il mio orgoglio. Grazie. Chiami difetti che mi dicono chi sei. E nei giorni che finiamo dispersi che ripenso a quel cocktail. Mi tenevi stretta la mano tra i fumogeni, le lacrime finché non scappiamo. Siamo belle ancora umili nelle tue tasche, le provviste ammancate, termosco e caffè. E iniziano gli spasmi quanto fanno baccano. Ho iniziato ad essere solo quasi come un uomo. Ho provato quella sensazione che dobbiamo mantenere le distanze. Raccontavi sempre te. Poi chiamavi spesso e mi davi una mano. Mi cercavi piena notte per scappare lontano. Io che andavo a 120 e nel buio fiutavo quell'odore di benzina che mi hai detto te. È l'odore delle lacrime. Ok, ok. Compagno, più le mon soffrisca, hashtag compagno. Rischi e cosa rischi, non c'è niente da rischiare. Se non c'ho ragione, indietro non posso tornare. C'hai ragione, proprio emozionale. Welcome scene, nascondimi la verità. Quindi basta che funzioni, qualcuno ripeterà. E abbiamo continuato ad innamorarci. Tutti quanti ci dicevano di non preoccuparci. Che se nevicava sempre era meglio sposarci. Ma quegli occhi sui palazzi erano lì per spiarci. Erano lì per me e te. Erano lì per me e te. Ma ha senso ancora vivere in società, secondo lei? Ma non prendere tutto e scappare via. Ma dovremmo vivere in società, nell'ambito della cooperazione, ma io credo che questa cooperazione non possa esistere, in quanto che è una speculazione. Ecco, e da qui chiudo perché non ho più niente da dire. Grazie. Arrivederci. Bellissimo brano, e vabbè, lo voglio dire a tutti i radioascoltatori, mi piace tantissimo la cassa di questo brano. E tra l'altro vorrei fare un appello, tornando al discorso che appunto questo brano c'era in mezzo anche Ricchi e Morti, scusate per la parentesi delirante che sto per fare. Io un appello, il mio, vorrei che Square Pusher facesse il remix della sigla di Ricchi e Morti. Basta, qualcuno era degli anni che ci pensavo. Se ci sta ascoltando, non si può tirare indietro. Pusher, ci stai ascoltando, innanzitutto un saluto, e poi sappi che secondo me potrebbe essere una bella idea per fare un nuovo EP, ma questa è un'altra storia. Io invece tornerei, mi piacerebbe parlarne con te, tornerei alla città barra paese da dove tu vieni, che è Savignano sul Rubicone, giusto? Sì, giustissimo. E almeno io mi ricordo, sono stato una volta a Savignano e la cosa che mi ha colpito c'è questa rotonda che è dedicata a uno dei forse dei musicisti più rinomati della Romagna, che è il grandissimo Secondo Casadei. Eh sì. Ok, e quindi adesso non mi è venuto in mente la prima volta che ci siamo presentati parlando di Savigliano sul Rubicone, che comunque la minaccia fantasma e non troppo fantasma del liscio incombe sulla scena, immagino. Assolutamente, poi è una questione anche, cioè una questione proprio di dinastia, no? Come c'è la dinastia dei Marley, la dinastia, no, di tutti i vari figli. Noi qui abbiamo la dinastia dei Casadei, cioè per fare proprio il mio Bignami, proprio così semplificato della storia, per chi non la conoscesse, secondo Casadei è riconosciuto come proprio iniziatore del liscio, cioè come colui che più che teorizzarlo l'ha proprio praticato, nel senso che comunque sia aveva per uno che è stato in attività nella prima parte del Novecento, ma proprio prima, il suo spirito era veramente, veramente molto internazionalista a livello musicale, nel senso che lui prendeva moltissime cose, aveva studiato, lui era violinista, però era un compositore chiaramente pieno, e poteva prendere dal tango argentino, come dalla polka, dal valzer, da varie cose della musica popolare, che comunque esisteva già la musica popolare anche in Romagna ovviamente prima del liscio. Cioè, la cosa bella per me del liscio è che in certi sensi può essere veramente assimilabile, cioè non, adesso questa la esagero, ovviamente te la esagero, però per esempio quando si parla di reggae, no? La Giamaica fondamentalmente c'ha gli abitanti dell'Emilia Romagna e la grandezza più o meno è quella, e la musica c'è da tanto tempo, tante storie, tanti popoli, tante cose, proprio come in Italia, come in Romagna. Cervia, a un certo Kingston. Cervia potrebbe essere, cioè, forse sì, forse non so, forse se è Savignano, forse proprio Gatteomare. La cosa più bella del liscio, almeno per quello che lo conosco io, ci tengo a precisare che io purtroppo, cioè, non essendo di origini romagnole, non ho il nonno che andava alla balera, che c'ha quelle vere storie, però per fortuna ho potuto parlare con diversi grandi ballerini, cose, storie. La cosa veramente bella è il fatto di prendere musica di tutto il mondo e riprenderle in un proprio modo, quindi uscendo dalla mimesi, non so come dire, anche dall'appropriazione culturale volendo, e renderla accessibile a chi sto mondo non l'avrebbe girato mai, per nessun motivo, avrebbe girato, non c'era manco internet, manco la radio, e ballava nel tango, ma ballava nel tango romagnolo, ballavano quello e quell'altro, e quindi io non vorrei mai farne un discorso identitario, cioè secondo me anche il fatto per noi di fare tipo dell'afrobeat in italiano non è una questione di prima gli italiani, ovviamente, no? Non è neanche un discorso per me di mimesi, è un po' potrebbe essere anche la cosa che ha fatto secondo me in molti sensi Manu Chao, che comunque sia, cioè, per essere franco-spagnolo, in realtà lui attinge tantissimo alla musica sudamericana, e gli spagnoli in realtà erano conquistatori in Sud America, ma il modo in cui lo fa lo rende in realtà reso accessibile secondo me a tantissimi europei un tipo di musica che in realtà era molto in una nicchia lontana, e secondo me a questo punto Casadei come Manu Chao, assolutamente. Poi il figlio continuando ci ha messo le parole, e soprattutto vivendo gli anni del boom economico italiano, che come sapete, cioè, in Riviera non hanno perso un secondo, cioè pochi anni dopo la guerra c'erano già i tedeschi in vacanza, cioè la Romagna ha perdonato tutto, bisognava fare affari subito, e quindi con questa cosa, le balere che iniziavano a nascere, quindi usciva dal contesto proprio della festa di paese e basta, iniziava a diventare, no, una forma di pre-discoteca. Lick Raul, suo figlio, ci ha messo le parole, a volte migliorando, a volte peggiorando, chi lo sa, e piano piano tutto è diventato, dai, chiaramente, no, è sempre così, quando poi le cose diventano mainstream, partono i personalismi. Raul è una specie di, uno della famiglia reale qui, ecco, assolutamente, amato dal popolo, poi è nato suo figlio Mirko, insomma, hanno iniziato a mettere le varie basi, insomma, piano piano la musica, ecco, è diventata una cosa proprio completamente marginale nel panorama del liscio, sono veramente una specie di Confindustria della musica, ecco. Beh, sicuramente, essendo in Romagna ed essendosi sviluppato negli anni del... avendo preso piede negli anni del boom economico, ha risposto a un'esigenza che era quella della Romagna di poter garantire un intrattenimento per persone che non fossero solo romagnole, insomma, riuscire a creare un linguaggio comune per tutti i turisti, che erano l'unico modo, l'unica forza della Romagna. E secondo me questa è stata l'incredibile forza dei romagnoli, è stata quella di non avendo nessuna... valore naturalistico, di creare un intrattenimento comune per tutti, sin dagli anni del boom economico, e Liscio sicuramente è stato parte di questo. Anche perché intrattenimento di certo non si poteva contare sul mare. No, appunto, non avendo si è puntato sulla cultura, diciamo. Deve puntare sulla terzina che sull'acqua. Però, parlando appunto di Liscio, cioè, mi interessa tornare un po' a quello che hai detto, penso, prima, quando si parlava di Fela Kuti e di quei popoli che hanno creato musica all'interno della disperazione, no? Cioè, l'intenzione. Sì. Quindi, sì, tu prima parlavi che anche il Liscio andato ad attingere a un sacco di, cioè un sacco, comunque a molta musica anche molto lontana, che nasceva comunque anche da popoli o da realtà completamente diverse da quello che poi è diventato qua, se non sbaglio, giusto? Eh sì, anche perché poi c'è da dire che quando si è sviluppato, no? Cioè, quando aveva a che fare, cioè, quando era in attività secondo Casadei, cioè, si parla veramente di un'altra Italia, cioè di un'Italia soprattutto molto povera comunque. E quindi in quel senso lì la povertà, no, la catastrofe, più che piuttosto che anche no, stare tra le due guerre, quella è una cosa che unisce tutti, no? Poi ti unisce con l'argentino, come ti unisce col bulgaro. E in questo momento, cioè, risultano evidenti cose che tantissimi intellettuali dicono da almeno 30 anni, però in questo momento proprio è innegabile questo fatto, no? Siamo veramente in mezzo allo stesso casino, no? E quindi cioè, in un certo senso io mi spiego così anche per esempio il fatto che dell'esplosione, no, degli ultimi 10 anni, della grande rinascita, no, di tutta la cumbia, dell'afrobeat, che in Europa erano sempre stati marginali, invece negli ultimi, insomma, 10 anni hanno spinto molto. Dici, poi chi si è trovati allineati su alcune anche realtà, perché certe necessità anche già prima di tutto sociali sono venute fuori, c'è un bisogno di stare assieme diverso, cioè magari veniva meno voglia di, no, di fare festa a prescindere, ma proprio fare qualcosa che ti smuove un pochino più da dentro, per comunque poi fare festa, perché l'obiettivo rimane sempre quello. Però no, dicevo che questa unione, cioè, ci sono alcuni brani tuoi dove c'è questa unione tra, infatti parlavo anche del Liscio, anche per poi arrivare al fatto che ci sono tanti brani, che adesso mi piacerebbe mandarne uno di questi, dove si sente questa commistione tra la musica, in questo caso africana. Io parlo sì, di sì, tanto... quella, ecco, quella è sempre stata un po' una cifra, cioè non è stato mai un limite, però anche una cifra di Falafel Fanzamiglia, anche perché la maggior parte delle cose chiaramente ce l'ho di mezzo io, ed è una cosa che dal primo gruppo iniziavo un pochino a sperimentare, è diventata una nostra cosa, e questo si unisce perfettamente al discorso di secondo, in questo caso. Esatto, e questo a me piace un sacco, il fatto che comunque, volente o nolente, sei comunque o per osmosi o per coincidenza e casualità allineato con questo state of mind che tu mi hai fatto poi pensare rispetto al Liscio, molto interessante secondo me. Infatti guarda, se vogliamo sentire un pezzo, io farei sentire un pezzo di quello che è stato e che ancora è progetto di punta di Falafel Fanzamiglia, anche solo per il fatto che è l'unico che quando andiamo a fare concerti in cui ci siamo tutti quanti, chi come cantante, chi come laserista, chi come performer estremo, e questo progetto si chiama appunto Savignano O, quindi è proprio la chiusa di questa cosa qui, cioè proprio Savignano è nato tra me e Jason Oldfai, che è questo ragazzo del collettivo. Lui si occupa per lo più di casse, lui costruisce casse soprattutto partendo spesso da materiali riciclati o da vecchi mobili o piuttosto con da coni dei cinematografi degli anni 30, e con lui abbiamo iniziato a cantare queste canzoni perché eravamo entrati in fissa con la musica dello Zimbabwe, in particolare. Questo è molto interessante. In particolare per quella dello Zimbabwe, perché è caratterizzata da una cassa dritta, insistente sempre, quasi assenza di rullante, Charleston, o in 4, in 3, e chitarrini favolosi. E noi le ascoltavamo finché a un certo punto abbiamo iniziato a cantarcele in macchina con le nostre parole, con quello che ci poteva sembrare o con quello che in realtà tu alla fine, quando non capisci quello, è come quando hai un'allucinazione, quando non vedi bene una cosa vedi quello che vuoi vedere. E quindi sentivamo queste cose, era un momento un po' peso per me per la tendinite, per lui per motivi sentimentali, abbiamo scritto fottio di canzoni e abbiamo iniziato a fare dal vivo e siamo divertiti molto. Adesso speriamo di tornare a fare delle robe il prima possibile. Il pezzo forse il primo da far sentire è Sono in Down, un brano di Jason Five. Infatti io, anche a me sarebbe piaciuto mandare questo brano, quindi siamo perfettamente allineati. Quindi Savignano o Sono in Down. Thank you. down, sono in down da due tre giorni, ho anche la tosse. Sono in down, sono in down da due tre giorni, ho anche la tosse. Sono in down, sono in down da due tre giorni, ho anche la tosse. Sono in down, sono in down e ho male al culo da due tre giorni. Ma sono in down, sono in down, sono in down, sono in down e ho male al culo e so la tosse. E se mi vuoi sto con te, ma c'ho la tosse. E se mi vuoi sto con te, ma c'ho la tosse. Foto. Incredibili fuori onda del nostro Nostromo, torniamo dunque a parlare del gruppo, del collettivo con cui attualmente collabori, che abbiamo citato prima. E nulla, ti volevo chiedere se ce ne parli un po' meglio, se ci spieghi meglio chi sono le facce, quali sono i volti dietro questo collettivo e che cosa state combinando un po' in questi momenti di pausa forzata. Esatto, allora adesso diciamo che il nucleo, proprio il nucleo stabile da un paio d'anni a questa parte, manca un po' da prima, siamo in quattro. Siamo io, Junko Dayton, che è quello di cui parlavo prima, che è coautore di Quarantena, che lui in realtà diciamo è... Noi lo chiamiamo l'eminenza grigia del laserismo, perché negli ultimi anni abbiamo preso molto a inserire anche un po' in Sound Down, si sentono le questioni Neo 3000, si sentono questa fissa del laser che abbiamo, per cui ci vorrebbe tutta un'altra puntata per parlare del laserismo come disciplina che noi proprio pratichiamo, tipo arte marziale. Quindi c'è Junko Dayton, che è anche quello che è anche uno dei due che cura più la questione anche delle grafiche, piuttosto che la questione proprio molti contenuti, nonché capo e anche colui che ha istruito gli altri laseristi dopo di lui, quando lui non c'è. Poi, laser si potrebbe chiamare. L'eminenza del laser. E poi abbiamo Jason Oldfai, che era il ragazzo di cui parlavo prima, l'autore di Sound in Down, tra l'altro, che è il mio coautore di tutti i brani di Savignano, e che come vi ho detto, che oltre a cantare, a fare queste bellissime perline con le farfise, fa in realtà la sua principale occupazione, che ovviamente noi alle nostre feste abbiamo sfruttato più volte. Fa questa sua attività che si chiama Jazz Old Fi. Per ora ancora anche la partita IVA d'artigiano, vediamo se converrà a tenerla o no, però comunque lui c'è, fa queste case, cercatelo. E poi abbiamo, vediamo il nome, come si chiama? Si chiama Jesa con la J, Jesa Old Fi, perché lui è un amante comunque dell'hi-fi vintage e di queste cose, delle medie, un amante delle frequenze medie. E poi abbiamo il direttore Loi, che lui invece lui è un insegnante di karate, diciamolo, cioè, non giriamoci troppo attorno, lui è un insegnante di karate, cresciuto proprio a karate, yoga e in grande spirito introspettivo, e in realtà ha avuto anche qualche esperienza, cioè, fino a questo stop ha avuto anche un tot di esperienze dal punto di vista del teatro, e E poi ci sono diverse, diverse figure che girano attorno, no? Come dicevo, parlavo prima di Wotsu, che è questa, questa ragazza che sta curando il video di Moyemeno, tutto animato, che lei nasce come fumettista, ma è una DJ da, da assalto. Se volete fare una festa in casa, chiamate Wotsu, vi trovate a ballare tipo, capito, dai, dai remix polka di Eminem alla breakcore in mezzo secondo. È potente, potente DJ Wotsu. Ultimamente ha cambiato molti nomi come DJ, adesso era diventata DJ Impatto Ambientale, ultimamente. E infatti queste sono le persone, i progetti proprio che stiamo portando in giro come live. Finora sono soltanto io come Torino 3000, che vado da solo con i beat e con la mia tastiera laser costruita insieme a Jason Fai. E poi c'è il Savignano O, invece, in cui ci presentiamo a suonare. E siamo io e Jesa che cantiamo con questi microfoni che ha costruito lui con dei vecchi phone degli anni 70. E i laseristi dietro e il direttore Loi che fa... Ma le asciuga capelli hai detto? Sì, asciuga capelli, sì. Ha fatto il microfono con i phone. Se guardate su Instagram di Falafel Faz Famiglia, poi queste cose sono un po' tutte le foto, si capisce meglio a guardarle che a spiegarle. Adesso per i radioascoltatori, poi noi linkeremo ogni link di cui abbiamo parlato oggi, qualsiasi. Grande. Tranquillo. Quindi i due progetti attivi sono questi due come live. Le cose che facciamo con Junko Dayton sono molto molto pensate più per essere associate a un video, a un concetto, a un messaggio e cose così. Abbiamo fatto un video da poco che si chiama Manifesto e che si collega a una cosa che ci hanno chiesto di una serie di artisti che stanno facendo una cosa per il reddito di quarantena, in cui ci siamo allargati e chiaramente siamo buttati subito sul reddito universale, le nostre solite, sbraghiamo subito. E c'è questo progetto che è nato da poco, che abbiamo già fatto uscire due brani con i video e che spero che appena finirà la quarantena faranno il loro debutto, anche se hanno ancora pochi brani, ma in 20 minuti quelli distruggono tutto. Sono il direttore Loi e Wotsu, di cui vi parlavo, e sono i 10 cani rari che solo i ricchi possono permettersi. Che tra l'altro chapeau per il titolo. Il titolo hanno scelto appositamente un nome clickbait. Più possibile. Ah, ho capito ora la logica. Già era figo il titolo così. Poi ora capisco la psicologia che c'è dietro. Cioè, una figata. Beh, volendo possiamo ascoltare anche un pezzo, visto che è l'unico gruppo ancora non abbiamo sentito. Il piano si chiama Greg e, come la maggior parte dei brani dei 10 cani rari, è stato scritto nel periodo in cui il direttore Loi e Wotsu stavano lavorando in Svizzera nei campi per fare qualche soldo. E hanno conosciuto questo personaggio che un po' muoveva i fili di tutto, soprattutto delle cose più interessanti. E questa figura si chiama Greg, come il brano. Carosello 22esima. Azione! Azione! Azione! Il giornalista ride, ma in cuor suo è furibondo. Azione! È furibondo. Azione! È furibondo. Azione! È furibondo. Azione! È furibondo. Da comprare. Da comprare. Il giornalista chiama Mosca e dice: ah, come gioca del piede, ah, come gioca del piede, ah, come gioca del piede, gioca del piede, gioca del piede. Sto andando a San Maurizio a comprar la shish. Sto andando a San Maurizio a fare shopping. Sto andando a San Maurizio a fare la shish. Sto andando a San Maurizio a comprare shopping. Ma lei è stato visto in piazza Spromonte comprando 400.000 lire di cocaina. Ti fa bene. Ma chissà cosa avrà quel ciccione del menù. Ma chissà cosa avrà quel ciccione del menù. E allora dammelo, dammelo, dammelo il piatto del giorno. Dammelo, dammelo, dammelo che poi ritorno. Dammelo, dammelo, dammelo il piatto del giorno. Dammelo, dammelo, dammelo che poi ritorno. Però io dico faccio, non è che io mando. E mo che sa fa? E mo che sa fa? Divani, divani per non rialzarsi mai. Divani, divani per non rialzarsi mai. Come Greg sul divano non si rialza più. Come Greg sul divano prova a rialzarlo tu. Gli chiedo dell'hashish e Greg che si alza. Prende quel sassolino dalla scarpa. Gli prende quel sassolino dalla scarpa. 100 euro di sassolino dalla scarpa di Greg. Sono 100 euro per il sassolino dalla tasca di Wotsu. 100 euro di sassolino dalla scarpa di Greg, solo 100 euro per il sassolino dalla tasca di Watts, dalla scarpa di Greg alla tasca di Watts, dalla scarpa di Greg alla tasca di Watts. Greg è come a Singurgo il campione. Greg, no, rispondo, qui bisognerà querelare. Immediatamente scatta un controllo, sì, con la polizia che arriva a casa e vi arresta. Tacchet, polizia a casa, denunciato. Allora, sia ben chiaro, caro signor Tognati, lei è un drogato. Sono andato a San Maurizio, m'hanno dato pure il bis. Sono andato a San Maurizio, m'hanno dato pure il bis. Mi serviva un passaporto, mi hanno detto vai da Greg. Mi serviva un rene nuovo, m'hanno detto vai da Greg. Avevo bisogno di un cane, ho chiesto a Greg. Volevo liberarmi del cane. Wow, wow. Ho chiesto a Greg, parlo con Greg, faccio con Greg. Mi metto a posto con Greg, parlo per Greg, parlo con Greg, penso solo a Greg, parlo da Greg. Allora guardi, domani, domattina, arrivo immediatamente a casa un intendente della Guardia di Finanza. Praticamente inesistente, praticamente inesistente. Agli occhi del governo non esisto, agli occhi del governo non esisto. Apro partita io e poi fallisco. Ma tanto smisto come Greg, sto sul divano come Greg, smisto come Greg, scrollo come Greg, poi smisto, poi scrollo, scrollo, poi smisto. Accettativo dei alla Willa ricerca un nuovo dinero per andare su questo mezzo. Oh, anzitutto una notizia, sì, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, sì, è stato già arrestato. Questo è l'ultimo brano. E niente, io avevo una domanda, una curiosità. Ti volevo chiedere, appunto, dato che produci e quindi insomma, ci sarà stato un momento nel quale ti sei approcciato alla produzione, alla registrazione. Volevo chiederti quali sono stati i primi strumenti che hai utilizzato. Beh, io venendo molto molto dall'ambiente delle sala prove, avendo sempre vissuto in sala prove, quando ho iniziato a fare le prime cose ibride, diciamo, con mettendoci dentro il computer, sono partito, come credo la maggior parte dei musicisti, con GarageBand. E piano piano, quando ho avuto quel momento di stop della tendinite in cui potevo suonare di meno, ho iniziato in realtà prima a guardare qualche programma da DJ e quindi ascoltando musica anche sempre più mixabile, quindi spostando da qualche cosa di elettronica a trovare robe molto più incentrate quello, quindi non suonate, più ibride così, e ho iniziato a dire ok, basta, GarageBand mi sta stretto, perché può andare bene per abbozzarti le cose, proprio veramente per spingere rec e basta. E ho iniziato a usare Ableton perché un mio caro amico, che è Daniele Maggioli, che probabilmente sta ascoltando, lo saluto, del Duo Bucolico, mi ha detto man, io ultimamente mi sono buttato su Ableton, cioè, è fantastico, cioè, tu lo prendi su subito, devi buttarti, cioè, poi anche se puoi fare mille cose, te ne fai due, inizi a farle. Quindi mi ha dato la spinta per mettermi su Ableton. Guarda che Ableton è come una chitarra, te le canzoni scrivi anche lì. Quindi in realtà io ho fatto negli ultimi poi 3 anni, sono stato molto tempo al computer su Ableton, in realtà come altre macchine ho fatto qualcosa con una drum machine che mi aveva lasciato mio padre, che è una Roland 727. Che è la 707 tropicale, no? Invece di avere la cassa e il rullo, c'ha il bongo, c'ha il campanaccio, non ha la cassa, non ha il rullo, non c'ha niente. E una Volca Beat, proprio la mini drum machine della Korg. Sì. E in realtà adesso come adesso, la maggior parte delle cose che faccio le faccio tutte su Ableton, bassi e chitarre tendo a registrarle io e poi comunque spacciugarle tutte con Ableton, e quando è possibile, in questo caso per ora solo sulle cose di Torino 3000, visto che ci faccio un affidamento anche un po' più dal punto di vista lavorativo, ci tengo anche dopo un po' di anni a non farmi prendere sempre per quello che non so fare i mix, ho iniziato a fare anche a passare per lo studio. Ecco, adesso per esempio come Torino 3000 sono molto contento del flow che ha trovato su quella cosa lì, perché riesco a lavorare bene su Ableton per conto mio, e poi quando certe cose ho bisogno di farle in studio, magari le voci, rifare qualche chitarra, qualche basso con i transienti un pochino più allineati e i mix, poi li vado a fare in studio. Quindi in generale, diciamo, anche quando produco pezzi per esempio per i Cani Rari o quelli con Junko Dayton, chiaramente li produco per i miei fratelli, quindi sanno benissimo i miei limiti, sanno che abbiamo un'estetica comune. Se dovessi mixare forse o masterizzare un brano di qualcun altro, farei una porcata clamorosa. Dai, però raccontaci anche della tua bellissima tastiera, che secondo me per concludere è tosico parlare guarda, della Taser tastiera. È perfetto anche per l'ultimo pezzo che metteremo. E prima ho accennato al laserismo. Il laserismo è una disciplina che noi come falafel pratichiamo ormai da 3-4 anni. L'idea mi è venuta inizialmente dal fatto che quando io stavo molto male per la tendinite, cioè chiaramente si parla di un male, cioè non è che zoppicavo, però era un male, insomma, più emotivo, che non riuscivo a suonare, qualsiasi cosa facevo non riuscivo a suonare. Mi stavo riprendendo, ma vedevo che, come tutti mi avevano detto, poi tutti gli altri che avevano avuto la tendinite, che quella ce l'hai per sé, cioè un po' ce l'hai per sempre, ti torna subito, no? Una cosa che mi ha aiutato molto è stata la laser terapia, che quando sono andato da questo medico che cura i calciatori del Rimini, che era credibile perché sembrava sempre ubriaco, c'era sta faccia rossa, e si chiamava dottor Cicchetti, e mi faceva queste sedute di laser, che era bellissima. Io non ho mai visto un medico agire così, cioè mi metteva su questa cosa del laser e poi andava a farsi i cazzi suoi. Io non sentivo male, sentivo solo un caldino strano e stavo fermo, non dovevo fare niente di difficile, e poi stavo meglio. E quindi da lì un po' mi era venuto tutto sto viaggio, un po' anche perché ero rimasto senza musicisti, un po' perché stavo provando a buttarci sull'elettronica, ma non me la sentivo di fare live set col computer in cui sto dietro a farsi con la testa. E allora abbiamo iniziato a provare a buttare questa cosa del laser, che noi avevamo messo anche come una cosa per quasi un inside joke, era per noi. E in realtà da fuori tutti hanno iniziato a notare questa cosa. Vi parlo dei primi concerti del Savignano O con Gesa. Poi quando ho iniziato a pensare anche a un mio progetto da solo, proprio per il fatto che comunque Gesa c'ha la sua attività, quindi non può farlo proprio troppo full time come vorrei farlo io, ho detto ok, sono da solo, è la prima volta che faccio qualcosa da solo, e non sono un rapper, cioè non posso mettermi la base e stare lì col microfono in mano e basta. E non vorrei suonare la chitarra, la Rolando Bruno sulla base sopra, e allora ho teorizzato la mia tastiera laser, che fondamentalmente abbiamo assemblata insieme a Jason Fai, è una Casio Club dei primi anni 90, un tastierino proprio dei peggiori, ma dei peggiorissimi. Scelta positivamente, perché uno dei peggiori. Sì, anche perché della tastiera. Ah, esatto, anche perché è la più sacrificabile poi in generale. E quella poi aveva due suoni, uno è il suono di Brandelli, che cui sono affezionatissimo, quella roba che prende su verso l'alto. Abbiamo collegato questa tastiera a un delay, a un eco per chitarra, e sempre sulla stessa, voi immaginate, no, come una K-Tar, no? La classica tastiera dalla Sandy Martin, è una cosa, la tastiera tracolla, e quindi ha due canali interni, uno è di questa Casio che entra in un delay per impallarlo, per dargli un po' d'ambiente, e l'altro è un causillator, no? il mini sintino a pad. Il Muse della Romagna. Quella l'ho copiata dai Muse. Lui usava il Chaos Pad, il mini Chaos Pad, perché processava la chitarra da lì, mentre invece quello che uso io fa proprio solo i suoi suoni, e per lo più ovviamente scelgo quelli più laseristici. Esatto, nei concerti fondamentalmente è tutto lì. Io punto molto sui testi e sul beat, cioè sul fatto che se tu vuoi ballare te la balli, puoi anche non ascoltarmi. Se non c'è voglia di ballare, comunque c'è qualcosa a sentire, che da seguire. A me serviva, no, che un po' perché mi ero affezionato ai laser, un po' perché mi serviva anche a me un diversivo per non stare tutto il tempo lì a cantare e poi fare cosa. Cioè col Savignano cantiamo e balliamo, però siamo in quattro su un palco, c'è un concerto veramente punk. E volevo riuscire a dare un po' la stessa botta, e ho capito che l'unica soluzione era inchiodare una Casio Club a un pezzo di legno, a una racchetta da tennis, e coprire tutto quanto con dei LED. E quindi mi sono fatto la scenografia, il diversivo e soprattutto la laser terapia in una roba sola. È la soluzione più logica, se non altro, l'unica. Sì, mi è sembrata, cioè, quando una volta che poi ti viene un'idea così, ti sembra strano che potresti anche non averla avuta, perché era lì davanti agli occhi. C'è una vita prima e dopo i laser, sicuramente. Allora, per salutare manderei un brano che io avevo scritto in realtà quando ancora suonavamo con i Radio Maria, col primo gruppo Falafel, ed era il 2016, è tornato, secondo me, in vari momenti è tornato sempre più attuale. Il brano si chiama Scazzo. Prima, quando avevo scritto con Radio Maria si chiamava Scazzo 2.0. Quando l'abbiamo rifatta con Savignano O, che è la versione che ascolteremo, sì, l'abbiamo chiamata Scazzo 3.0. Adesso nel 2020 farò uscire la versione di Torino 3000, che sarà Scazzo 4.0. Ma è molto bello perché quando l'ho scritto io avevo profetizzato chiaramente l'elezione di Donald Trump, l'elezione di Donald Trump 6-7 mesi prima, e adesso sembra la stessa identica profezia. Che cazzo ci dobbiamo fare? A volte uno predice il futuro suo malgrado, anche se non è quello che gli piace. Ecco, il brano si chiama Scazzo 3.0, è in sentimento per Lineo, il secondo disco del Savignano. E con questo brano io direi che ci salutiamo con questa laser terapia per tutti i radioascoltatori. Savignano, salutiamo Tonino 3000 e tutti gli altri membri dell'equipaggio. Quindi ragazzi, buonasera, ormai buonanotte, e a presto, speriamo che finisca in fretta questa situazione per sentircelo live, Tonino. Bella, ciao a tutti, Triple F su tutto. Bar.